America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And the Oscar goes to Hugo, Dante Ferretti, production designer, Francesca Lo Chaveo, set decoration. Beh, una puntata di solo andata, come sapete ogni tanto dedico lo spazio alla radio a delle storie di italiani che sono venuti in America, che in qualche modo hanno preso un biglietto di solo andata. Ecco, devo dire, non tutti quelli che prendono un biglietto di solo andata arrivano a vincere un premio Oscar, ma una storia di solo andata è anche quella di Dante Ferretti, che è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Ferretti. Buongiorno. Allora, beh, lei a un certo punto arriva in America e adesso lei ha un passaporto americano, sì, ha una residenza a Miami, risiede a Miami. Sì. Sì, io praticamente risiedo in un trailer perché sono dappertutto. In questo caso sono a Londra, poi faccio film a New York, l'ho fatto in Canada, insomma l'ho fatto nell'est europeo, vado un po' dappertutto. L'unica cosa, mi piacerebbe stare ogni tanto anche a Roma, perché insomma voglio dire è il posto che più amo, quello dove ho vissuto di più, poi soprattutto Cinecittà. Cinecittà, come diceva Fellini, per me è come la mamma, perché io sono cresciuto a Cinecittà. Per me Cinecittà è stata la prima cosa che mi è venuta in mente quando avevo 14 anni, per cui ho detto io voglio fare il cinema, voglio fare il cinema, e questo è quello che poi è successo. Ecco, lei ci ha dato in 3 minuti, anzi anche meno, l'immagine di un sogno per molti. È in giro per il mondo, adesso è a Londra che sta finendo, sta lavorando a un film su Cinderella, Cenerentola, e dopodiché andrà a Taiwan, alla casa a Miami, Roma, insomma è una vita molto intensa e vince i premi Oscar, e tutto questo un po' legato a un sogno americano in fondo, che viene quando? Cioè, sì, quando, no. quando è che lei scopre l'America? Io l'America l'ho scoperta veramente nel cinema, a Macerata, nelle Marche, quando io mi ricordo che andavo sempre al cinema di nascosto. Soprattutto mi piacevano molto a quell'epoca i film western. Poi è cambiato il gusto e allora ho cominciato a piacere, non so, film come Ben-Hur, Cleopatra e questi altri film. Ma è attraverso questi film, lei che idea aveva dell'America? Di un posto dove lei voleva andare per scoprirlo? Ma sì, no, perché, di una frontiera, no, io dico sempre la nuova frontiera. Soprattutto si sentiva sempre la parola Hollywood, Hollywood, Hollywood. Ma che è sto posto? Insomma, poi un giorno qualcuno mi ha spiegato che cos'era Hollywood, dove si faceva. Tant'è vero che io la prima volta che sono venuto qui in America per fare Ciao Maschio di Ferreri, mi ricordo che siamo andati a Los Angeles e era ancora quello che mi è rimasto in mente, che mi sono fatto fare una fotografia davanti, io e Francesca, davanti all'ingresso della Paramount, dove da dietro si vedeva la scritta Hollywood sulla collina. E invece poi, dopo aver fatto tanti altri film in Italia con Fellini, con tutte cose, faccio il film, mi chiamano per fare il film Terry Gilliam per fare il barone di Munchausen. Con il barone di Munchausen ebbe non molto successo, però mi ricordo una cosa, io che ho avuto tutte quante le critiche americane che dicevano che erano una delle scenografie più belle mai fatte, realizzate nel cinema. E mi chiama a un certo punto Scorsese per L'età dell'innocenza. Come mi ha chiamato, ha detto arrivo subito, ho preso l'aereo, due giorni dopo stavo a New York, da Los Angeles, mi ero scritto, dato il mio inglese poverissimo, mi ero scritto praticamente quello che io pensavo della sceneggiatura e come l'avrei realizzato, come avrei realizzato. Lui, mi ricordo, legge queste pagine scritte in inglese che mi avevo fatto scrivere, io ho dettato, ho fatto tradurre, E lui dice: sì, questo mi pare giusto quello che ha detto. Ma com'è che uno che così è nato a Macerata, poi è andato a Roma, poi riesce a interpretare quel momento di vita, the age of, quel particolare momento storico americano che ci ha descritto Edith Wharton alla fine dell'Ottocento, e a creare questa atmosfera? Ma sai, io mi documentavo molto, guardavo dei film. Poi una cosa mi ricordo, che fu organizzata una visione del film proprio al MoMA, proprio nella sala del MoMA, perché una volta Scorsese faceva parte del gruppo che si occupava del cinema, della parte cinematografica del MoMA, presentò Il Gattopardo di Visconti, ed eravamo presenti tutti quanti, tutta la troupe, e alla fine del film tutti quanti rimasero veramente così estrafatti, erano bellissimi, perché ha detto: ecco, se io riuscissi a fare il 10% di quello che è riuscito Visconti nel Gattopardo, io sarei l'uomo più felice del mondo. Io, che in qualche maniera venivo dalla scuola italiana in questo senso, dove si faceva molto dei film storici, così in più mi ero organizzato qui a New York guardando tutti quanti i libri del periodo storico americano, poi insomma tutta la pittura, la cosa, e attraverso tutto questo è nato The Age of Innocence. Ecco, che consiglio può dare a un giovane italiano che oggi, come lei, in qualche città di provincia sogna l'America? L'America è ancora, come io dico sempre, una nuova frontiera, è ancora un posto dove si possono fare delle cose grazie al merito? Io penso di sì. L'America, io amo molto l'America, amo anche molto l'Italia. Mi dispiace che in questo momento in Italia siamo in un momento in cui c'è poco da sognare, più che altro sono dei nightmare, si dicono così. Dei nightmares, degli incubi. Degli incubi. Speriamo che si rimetta a posto un po' tutte le cose, forse si può fare anche il cinema. E quindi questo ragazzo che sta pensando, cosa gli dice? Di prendere e venire in America, di prepararsi bene in Italia, di sfondare prima lì e poi venire qui? Questa è una bella domanda. Io, per esempio, c'è un ragazzo che lavorava con me, un giorno mi ha chiamato: senti, e io ho deciso, vado, ed è partito e sta adesso a Los Angeles, ha un contratto e fa disegni con il computer, come oggi si disegna molto, fa così, e ha preso il coraggio, è andato e lavora là. Cioè, però non tutti hanno molto spesso la possibilità e anche magari la volontà, magari c'è il coraggio, magari non c'è il coraggio di lasciare, che ne so, gli spaghetti. Amo l'America. Perché? Che cos'è che lei ama dell'America? L'America la amo perché l'ho sognata quando ero bambino, quando ero ragazzino. L'America era il sogno. E l'America di oggi è un'America che lei riconosce nell'America del suo sogno di gioventù? Sì, è un'America così, solamente che è un'America che è cambiata, perché sono cambiati i vestiti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com e su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi dicevo, restiamo in spirito natalizio, e dunque di Michael Bublé, Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star. Yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, so hang a shining star. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!